comunque le cose che sono qui, no? Cioè, sono proprio le cose di base. Quindi, se non sapete rispondere a queste cose, significa che proprio cioè, la base non c'è. Quindi, significa che se questo non è chiaro, significa che non c'è neanche, cioè, non c'è la pratica meditativa, cioè non c'è la contemplazione sui punti che possono cambiare la mente. Se non si sa quelle informazioni che sono chieste qui, non avete la base per cambiare l'attitudine e cambiare la mente. Perché questi sono quello proprio che sono i punti, sono contenuti i punti essenziali del primo scopo. No? Quindi sì, questo non è chiaro, se non l'avete in mente. Non avete possibilità di, cioè di non avete l'antidoto per spostare la mente dell'apparenza di questa vita. Okay? Quindi non c'è possibilità di generare la prima metà del primo aspetto del sentiero. Che sono i tre aspetti del sentiero, no? C'è la mente di immersione definitiva, la mente bodhicitta e la visione corretta. La mente di immersione definitiva, la rinuncia, è divisa in due: rinuncia a questa vita e rinuncia alle vite future, no? Quindi qui trovate la prima parte di questo. Quindi questo non c'è, avete un problema. Andiamo avanti. Quindi, se non avete il tempo, la forza per meditare la sera, non so, cercate di farla la mattina. Se non avete il tempo, almeno dovete leggere una pagina dell'Amrima al giorno. Okay? Questo è proprio il minimo, un paio di pagine di Amrima al giorno. E dovete prendere non delle cose breve, okay? Questo è troppo breve. Questo va bene per portarlo in viaggio o per riflettere velocemente. Okay? Quando non avete, dovete prendere le cose dettagliate. Come? Tipo, o il Pabonka. Ok, noi andiamo con il Sutra del Cuore. Mi prosto ai tre gioielli supremi. Così una volta udì il Bhagavan dimora Jagri sulla montagna a picco devoto insieme al vasto Sangha di Monaci e al vasto Sangha di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arakiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza, vedendo in cinque aggregati come vuoti di secca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arakiteshvara: come deve estrarsi ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò, e il Bodhisattva Mahasattva Arakiteshvara rispose allora il venerabile figlio di Sarvati: Shariputra, ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente i cinque aggregati come vuoti un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuote sensazioni, discriminazioni, fattori di convinzione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti, non cessano, non sono contaminati, sono privi di contaminazione, non diminuiscono, non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione, né coscienza, non c'è occhio, né rocchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente, non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure considerando le occhio, e così via, fino a concludere costituendo la mente e considerando la coscienza mentale. Non c'è ignoranza, estensione di ignoranza, fino a includere vecchiaia e morte, esistono la vecchiaia della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema, né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, perché non c'è ottenimenti, in Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, loro mente senza più oscurazione e senza paura. Essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, il Nirvana. Ed affidandosi alla perfezione della saggezza, è evidente che tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi sono anche completamente risvegliati, insorpassabili e perfetta piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non falso dovrebbe essere conosciuto come vero, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisova. Shariputra in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan rimerse da quel samadhi e elogiò il Bodhisattva, ma Sattva Ravitesvara dicendo: ben detto, figlio dei lineaggi, è proprio così, è proprio così. Si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio che tu hai mostrato, per finita tagata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Saradvati, il Bodhisattva, ma Sattva Ravitesvara, l'intera assemblea intorno a loro, insieme al mondo dei dei uomini, dei semidei e Gandharva, esultarono e poserono alte lodi alla parola del Bhagavan. Sanghe chadan sanghe chanam lai jan ju ma du dan e gyab su ji dan ge jin sa ge pe san nam ge na la ben je sanghe dro ba jo sanghe an chadan su ji chanam lai jan ju ma du dan e gyab su ji dan ge jin sa ge pe san nam ge na la ben je sanghe dro ba jo Sangye jadan zoji janam la Janju madu dane gyabzu ji Nangye jinsa yebe sanam ge Nala penche sangye droba jo Quindi, come di solito, aggiustiamo la nostra motivazione. Cerchiamo di pensare che siamo molto fortunati perché siamo ancora in vita, abbiamo la possibilità di cogliere di nuovo oggi l'essenza di questa vita umana, molto difficile da ottenere, di un grande significato. Dovete pensare che non siamo ancora in vita, cioè questa vita non durerà ancora per lungo, e non si sa neanche a che momento dovremo andarsene, lasciare le perfezioni di questa esistenza. Quindi si dovrebbe contemplare anche che c'è possibilità di riconnettersi con i cinque aggregati, quindi contaminati, ma in esperienze anche di grande sofferenza. Okay? Quindi si dovrebbe cercare di vedere se c'è effettivamente un metodo per evitare la sofferenza delle esistenze diciamo sfortunate, okay? E vedere anche se comunque si ottiene un'esistenza fortunata come l'esistenza umana non è di per sé qualcosa, diciamo, non è sufficiente, perché e anche le esistenze superiori a quelle umane non sono sufficienti, perché sono pervase di imperfezione, pervase di sofferenza, difficoltà, problemi. Qui si dovrebbe alzare la motivazione di nuovo e prendere in considerazione la capacità che abbiamo a ottenere la pacificazione completa della sofferenza, quindi la liberazione, quindi generare questa mente di emersione definitiva che desidera, quindi uscire di questo girovagare da un'esistenza all'altra, spinto dal potere del karma, dell'afflizione. E poi si dovrebbe prendere in considerazione e vedere che la pacificazione individuale è qualcosa di molto ridotto, un obiettivo molto ridotto, che si è elevato e in un certo modo è limitato, perché se prendiamo in considerazione tutti gli altri esseri sono in una situazione molto peggio della nostra, che sperimentano sofferenza molto superiore alle nostre, e a questi esseri sono esattamente come noi, desiderano la felicità e non sperimentare sofferenza. Poi si dovrebbe quindi prendere in considerazione anche questi esseri dal nostro punto di vista. Questa volta sono stati nelle vite passate esseri molto vicini a noi, si dice che sono stati tutti esseri, sono state la propria madre in numero di volte infinito. Quindi esattamente se prendiamo in considerazione la madre di questa vita, vediamo che siamo stati sempre al centro dei suoi pensieri, cioè sempre circondato da amore, okay? Cioè, sempre cercato a fare la nostra felicità. E quindi tutti gli altri esseri, quando hanno avuto questa stessa relazione con noi, hanno mostrato la stessa attitudine, che okay? Quindi dovrebbe cercare di generare, di pensare in quel modo, e quindi sentire che abbiamo un grande debito all'incontro di tutti gli esseri, okay? E quindi generare amore e compassione al loro incontro, che poi dovrebbe quindi assumere questa responsabilità di essere di beneficio agli altri, come lo possiamo nel nostro limite, essere di beneficio agli altri e anche generare questa responsabilità universale che è di porre gli esseri in uno stato al di là del dolore. Okay? Però dobbiamo capire che siamo anche molto limitati e non siamo neanche in grado di attualizzare la propria felicità, quindi non si parla neanche nello stato attuale di portare gli esseri al di là della sofferenza, qui si dovrebbe riflettere e vedere che solo un essere che ha completato il sentiero, che ha eliminato ciò che deve essere eliminato, che ha adottato ciò che deve essere adottato, ha sviluppato tutte le qualità, solo lui, quello che ha, cioè, completamente percorso, che è arrivato alla fine di questo sentiero, è in grado effettivamente di compiere di assumere il fardello della responsabilità della felicità degli altri. Okay? Qui si dovrebbe generare questa attitudine, quindi posso anch'io, cioè, ottenere questo stato, lo stato di Buddha, per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Okay? Quindi cercate di avere questa motivazione quando fate attività, okay? Di avere la motivazione di ottenere lo stato di Buddha per poter essere di beneficio ai esseri senzienti. Sia ancora questo qualcosa di molto lontano, che non si sa bene che cos'è lo stato di Buddha, allora almeno dobbiamo cercare di, cioè, dobbiamo generare questa attitudine che siamo qui, facciamo queste riflessioni insieme, che cerchiamo di imparare, di cambiare, di eliminare attitudini negative nella nostra mente, per fare in modo che questa mente diventa una fonte di benessere per noi, ma anche per gli altri. Ok, quindi entriamo, abbiamo incominciato la settimana scorsa le contemplazioni o l'addestramento dell'essere di motivazione intermedio, okay? Quindi l'essere di motivazione intermedio è qualcuno che non si soddisfa in nessun modo delle rinascite dette superiori all'interno dell'esistenza ciclica, perché lui le percepisce come essendo imperfette, essendo pervase di caratteristiche disfunzionanti, insomma, per lui sono nell'entità della sofferenza, quindi questo essere desidera l'emancipazione, si dice l'emancipazione, l'emancipazione completa della sofferenza, non soltanto la sofferenza del reame inferiore, ma l'emancipazione completa dell'esistenza condizionata dal karma e dell'afflizione, perché anche le rinascite fortunate sono comunque assunte dal karma e dell'afflizione. Il karma è virtuoso, okay? E le afflizioni sono comunque, cioè comunque, sono comunque compiute all'interno dell'ignoranza, l'ignoranza che è questo fraintendimento rispetto al modo di esistere dei fenomeni. Okay? Quindi abbiamo visto che cioè, la pratica principale dell'essere che ricerca la liberazione sono le tre addestramenti superiori, okay? L'addestramento superiore in etica, l'addestramento superiore in concentrazione e l'addestramento superiore in saggezza, okay? Quindi la saggezza è simile a una haccia, come si dice l'haccia che va a tagliare le radici dell'esistenza ciclica. Okay, qual è la radice dell'esistenza ciclica? Che cos'è che ci lega a questa forma di esistenza? È l'ignoranza. Okay? Finché c'è l'ignoranza, okay, ci sarà automaticamente un'afflizione e quindi un'azione che funge di causa a proiettare cinque aggregati contaminati all'interno dell'esistenza, okay? Condizionata. Quindi la saggezza è ciò che va a tagliare, che è eliminare dalla propria mente questa concezione, okay, di esistenza intrinseca o di esistenza vera dei fenomeni. Okay? Questa ascia deve essere, per andare, se vogliamo veramente essere efficace nella nostra meditazione, perché qui questo si tratta della pratica meditativa dei livelli molto alti. Okay, se vogliamo sempre andare a colpire, okay, l'oggetto di negazione giusto, questa essenza intrinseca, ci vuole una concentrazione molto potente. Quindi questa saggezza deve essere appoggiata su una mente estremamente stabile per andare a penetrare il suo oggetto. Okay? Quindi la concentrazione sono i bracci molto potenti che tengono questa accia. No? Però la concentrazione, anche questo, può essere attualizzata, può essere generata solo se c'è un'etica estremamente stabile, cioè estremamente sicura. Okay? C'è bisogno di una pratica etica estremamente salda. Okay? Salda. Questo è come il suolo, l'etica è come il suolo sulla quale questa persona che taglia quest'albero si tiene. Se il suolo non è stabile, è impossibile fare un lavoro decente. Quindi la pratica principale delle persone che ricercano la liberazione, okay? È lo stato di Buddha, ma qui siamo nello stato della ricerca della liberazione. Quindi sono l'addestramento superiore in etica, l'addestramento superiore in concentrazione e l'addestramento superiore in saggezza. L'addestramento superiore in etica, al minimo, quindi qui si tratta della presa dei cinque voti laici. Okay? Qui non si parla neanche più dell'abbandonare le 10 azioni non virtuose. È chiaro che ci sono, ma in più ci devo essere assumere i cinque voti di liberazione individuale per laici. Infatti non c'è liberazione di esaciclica senza l'assumere i voti di liberazione individuale. Quindi su questa base. Dopo c'è l'addestramento in concentrazione che vedremo più avanti, lo vedremo nel contesto dell'essere di motivazione superiore alla fine, e anche l'addestramento superiore, anche se lo toccheremo un po' qui, lo vedremo più in avanti nell'essere di motivazione superiore anche. Okay. Quindi come si fa per generare questa mente che desidera, quindi questa emancipazione completa dell'esistenza, okay? Si viene su questa mente, è il risultato, è ciò che emerge come risultato del contemplare la propria situazione in un modo molto, molto chiaro, molto preciso. Okay? Quindi si tratta qui di riconoscere lo stato precario nel quale l'essere si trova. Okay? Quindi si tratta di contemplare quali sono i difetti dell'esistenza ciclica. Okay? Quindi come risultato di questa contemplazione dei difetti dell'esistenza ciclica che si illustrano, che hanno, che danno, cioè questi difetti si illustrano come sofferenze, stati di sofferenza o di frustrazione o di insoddisfazione. Okay? Quindi come risultato di questa contemplazione ripetuta su un periodo di tempo molto lungo, okay, lungo e ripetuto, allora una mente che desidera quindi emergere di questo stato viene prodotta. Okay? Questa mente è l'intenzione, quindi è l'intenzione all'ottenere la pacificazione completa o la liberazione. Quindi adesso vediamo in che modo viene generata quel tipo di mente. Abbiamo visto che tutto questo ciclo di insegnamento, no, sui 3 addestramenti superiori, eccetera, eccetera, ha come base le 4 nobili verità. Abbiamo visto che abbiamo la verità della sofferenza, la verità dell'origine, il sentiero, la cessazione e il sentiero. Abbiamo visto anche perché sono stati insegnati in questo ordine, perché non è l'ordo di generazione, nel senso che sono presentati in ordine di effetto e causa, quindi non è un ordine sequenziale, l'ordine è cioè, naturale, ma vengono presentati nell'ordine di comprensione, di realizzazione nel continuum del discepolo, nel senso che il discepolo prima entra in contatto con la verità della sofferenza, okay? Dopo ricerca qual è l'origine di questa sofferenza, quindi entra in contatto cioè realizza qual è l'origine di questa sofferenza e in quel modo realizza anche la capacità, la possibilità di attualizzare la cessazione, perché sì, qualcosa è prodotto da causa e condizione. Sì, le cause e le condizioni vengono eliminate, allora il risultato, sofferenza, può essere evitato. Okay? E quindi la cessazione è insegnato come terzo, e questa cessazione lascia comprendere qual è il sentiero, lascia comprendere qual è il sentiero che conduce a questa cessazione e quindi il desiderio di praticarlo. Ecco perché il sentiero è stato insegnato per ultimo. Ok? Quindi siamo alla pagina, se prendiamo il testo, siamo alla pagina pagina 48. Possiamo meditare sulla sofferenza degli esseri umani, ok? Perché dopo ci sarà anche una sezione su meditare sulla sofferenza dei rami superiori a quelli umani, e andremo a vedere tre tipi di sofferenza, tre classificazioni: la sofferenza in otto, la sofferenza in sei e i tre tipi di sofferenza, ok? Quindi adesso incominciamo con la sofferenza in otto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì, la classificazione della sofferenza in 8. Quindi nel testo qui trovate solo la classificazione della sofferenza in 8, ok? E noi andremo anche ho estratto i punti del grande lambrim di Lamazon Kappa, così avremo una presentazione più completa. Sì, qualcuno vuole leggere le pagine 48, per favore? Meditare sulle sofferenze degli esseri umani. Quindi si incomincia con la prima, la sofferenza della nascita. Dice, anche se detto, c'è qualcuno... Sì. Anche se detto che le fonti di nascita sono quattro, inseguente dal punto di vista della principale, la nascita in utero. Si giace sotto lo stomaco, sopra il grande intestino, rivolti verso la spina dorsale, immersi in sostanze malodoranti e sporche. Gradualmente, mentre si cresce dallo stato di forma ovale fino ad essere capace di muovere gambe e braccia, quando la madre consuma cibo e bibite calde, è come se si fosse in una buca di fuoco, e quando lei consuma cibo e bibite freddi, si dimora in una cavità gelata. Si incontrano le sofferenze che dipendono da tutti i comportamenti negligenti della madre, così quando lei salta, corre e così via, si sperimenta come se si stesse precipitando in un abisso e così via. Se, nonostante questo, si giunge a 266 giorni, quando, a causa dei venti carnici e la testa si dirige verso il basso e si emerge attraverso le ossa pelviche molto strette, si nasce, mentre si sperimenta la sofferenza come se la carne e la pelle venissero separate. Dopo la nascita, anche se si viene posto in una stuoia soffice, si soffre come se si fosse stati messi sopra il letto di spine. Quando la placenta viene rimossa, c'è sofferenza come se la pelle fosse scorticata. Quando viene tagliato il cordone ombelicale, c'è una sofferenza come se la vita fosse troncata. Quando tua madre ti solleva dal suo grembo, c'è sofferenza come se fossi piccolo di uccello portato via da un falco. Quando sei avvolto nella stoffa, ovvero quando vieni messo a letto, c'è sofferenza come se venissi messo in una prigione sotterranea. Contempla queste sofferenze nel senso che del loro essere difficili da sopportare. Grazie, ci fermiamo qui per adesso e andiamo a elaborare queste varie cose. Okay. Quindi questo, allora, la sofferenza nella divisione in otto, ok? Avremo rispettivamente la sofferenza della nascita, la sofferenza dell'invecchiamento, okay? La sofferenza della malattia, la sofferenza della morte, la sofferenza di incontrare ciò che è spiacevole, la sofferenza di essere separato di ciò che è piacevole, la sofferenza di non ottenere ciò che viene desiderato e la sofferenza dei cinque aggregati. Okay? Queste sono la divisione in otto e qui abbiamo la divisione, la prima di queste sofferenze, la sofferenza della nascita. La sofferenza della nascita può essere contemplato tramite cinque punti. Okay? Cinque punti che il dolore della nascita, il primo che abbiamo appena letto, infatti qui in questo lambrim viene presentato questo primo punto della sofferenza della nascita, okay? Che il fatto che la nascita è sofferenza perché è associato al dolore, okay? Infatti è accompagnato, la Mazzonga dice che è accompagnata di molti e vari dolori, quindi di solito abbiamo una sovraimposizione molto molto su ciò che è la nascita come un evento, il miracolo della vita, no? Questo evento straordinario e bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Infatti se guardiamo le cose dal punto di vista, ricordare, infatti grande parte del fatto che non ci possiamo ricordare le vite passate, eccetera, è dovuto al trauma, è dovuto ai 9 mesi passato nel grembo materno e al trauma della nascita. Okay? Questo viene ho sentito, cioè nei testi, l'ho trovato anche nei testi, che era proprio dovuto a questo, che non ci possiamo ricordare anche le vite passate, no? Dovuta ai 9 mesi passati nel grembo materno. Comunque abbiamo questa sovraimposizione di bellezza, di purezza, di cosa miracolosa di ciò che è la nascita. Adesso andiamo veramente a guardare che cos'è questo evento così che ci fa così cioè, fantasy, no? Fantasy? Come si dice? Avere delle fantasie? Sì, rispetto. Per fuori lavoro, no? Faccio nascere tanti bambini, per cui sono operatorio. Ok, quindi. Non è niente di quello che potete pensare No, di no, me. ok. Quindi adesso vediamo un po' in dettaglio. Allora, quindi si prende. Che cos'è la nascita? La nascita, quindi si prende. Allora, nel buddismo la nascita è quando la coscienza dell'essere, dello stato intermedio, penetra la massa gelatinosa che sono l'unione della sostanza del padre e della madre. Quando la coscienza si associa a questa che è uno stato molto primario, che la coscienza si associa a questa sostanza, allora questa è la nascita dal punto di vista del buddismo. Okay? Quindi si passa 9 mesi quindi nel grembo materno, quindi in una sostanza nauseabonda, come si dice nauseabonda? Sì, cioè proprio nel buio stretto, in questa sostanza nauseabonda si passano 9 mesi, no? E come viene descritto qui, no? In accordo alle attività della propria madre, ci sono dei grossi sconforti che vengono sperimentati. Quindi questo lo potete leggere qui, no? E poi quindi una volta che è il momento della nascita proprio, è come se forse, no, il bambino è pressato, cioè proprio pressato a... tra due rocce, no? Quindi la sofferenza è abbastanza intensa. E poi vedete, no? Il primo suono che esce dal bambino non è un riso, no? Non è che ride, è un urlo, no? Cioè la prima volta che l'ossigeno entra nei suoi polmoni, lo brucia completamente, quindi c'è questo urlo e poi apri gli occhi, si ritrovi in un mondo completamente sconosciuto, dove le persone sono completamente smisurate, che lo guardano tutti come degli occhi, quindi lui è solamente, c'è un'esperienza di spavento, no? Rispetto a questa esperienza. E poi pensate che quindi la pella non è stata mai in contatto, è solo stata in contatto con liquido, no? Con la parete interna, quindi qualcosa di molto soffice, quindi viene detto, no, che anche la più soffice delle stoffe, no, è come carta vetrata, cioè come carta vetrata. Il bambino quando nasce non capisce niente, e nessuno lo comprende, nessuno è in grado di comprendere i suoi bisogni, quindi l'unico modo di manifestare il suo sconforto e sono questi urli continui, no? Quindi l'esperienza della nascita non ha niente di così, così meravigliosa, no? È un'esperienza di grande sofferenza per la madre, certo, ma per il bambino è grande sofferenza, okay? Poi non c'è niente di puro, non c'è niente di puro in questa esperienza, nel senso che ciò che nutre il bambino è proprio il cibo masticato dalla madre, mescolato alla saliva che passa nello stomaco, e questi residui vanno dopo, passano, no, nel placenta, eccetera, e vanno a produrre questo ecco, a produrre le osse, i vari tessuti, le varie cellule, eccetera. Quindi non c'è niente di puro, è proprio la nascita si fa all'interno della contaminazione. Della filth, come si dice filth, la sporcizia, ok? E si vede anche l'odore, no? Quindi non c'è niente di puro, è tutto contaminato, è tutto nella natura della sofferenza, ok? Quindi dovete riflettere in quel modo, okay? Perché bisogna eliminare queste concezioni erronee che abbiamo. Quindi vi ricordate, noi abbiamo parlato di queste quattro concezioni erronee che ci rendono la vita molto difficile, che ci creano molta sofferenza e molta insoddisfazione. La prima, quindi, è il soprimporre permanenza dove c'è l'impermanenza, okay? Quindi andiamo a sovraimporre il concetto di permanenza, dove infatti i fenomeni sono nella natura dell'impermanenza. Il secondo è andare a sovraimporre felicità dove infatti c'è sofferenza. Abbiamo questo concetto, andiamo a sovraimporre quell'idea di felicità dove infatti il sopporto è proprio nella natura della sofferenza. Poi abbiamo purezza dove infatti è completamente impuro e contaminato. Poi abbiamo l'idea, il sovraimporre l'idea di un sé dove infatti è completamente privo di un sé. Quindi queste sono le quattro concezioni, e queste quattro concezioni vengono eliminate dai quattro primi attributi dei quattro attributi della prima nobile verità della sofferenza. Che è la prima della nobile verità della sofferenza, ha quattro attributi, quindi ogni nobile verità hanno quattro attributi, quindi arriviamo a 16 attributi che si oppongono alla fine a 16 concezioni erronee che abbiamo. Noi siamo qui adesso molto interessati su queste quattro primi, quindi che sono il fatto che sì, prendiamo l'illustrazione dei cinque aggregati, quindi vi ricordate quali sono i cinque aggregati, no? Cinque aggregati sono i costituenti fisico-psichici della persona. Abbiamo l'aggregato della forma, l'aggregato della sensazione, discriminazione, fattore di composizione e coscienza. Quindi i cinque aggregati sono l'illustrazione della sofferenza. Quindi i cinque aggregati sono sofferenza, ok? Sono l'entità del dolore perché sono la natura della sofferenza, sono impermanenti perché sono momentaneo, ok? Sono vuoti perché non sono prodotti nell'entità di un sé permanente, indipendente, senza parte, e sono anche privi di un sé perché non sono prodotti nell'entità di un sé autosufficiente e sostanzialmente esistente. Questo verrà sviluppato, però questi sono questi quattro primi attributi. Comunque abbiamo visto che la nascita è associata al dolore, ok? Associata al dolore. Poi l'Amazzonga dice che anche la nascita è sofferenza perché è associata a delle tendenze disfunzionanti. Cosa significa tendenze disfunzionanti? Significa che un essere quando nasce, no? Non è che è prodotto ex novo in questa vita, no? Che la coscienza è prodotta ex nova in questa vita. L'essere da tempi senza inizio, la coscienza ha la sua continuità da tempi senza inizio, quindi ci sono predisposizioni su questa coscienza, no? Abbiamo predisposizione, abbiamo impronte karmiche, tendenze, eccetera. E quindi quando si nasce con queste tendenze disfunzionanti, con queste tendenze disfunzionanti che sono le afflizioni o i semi. Abbiamo i semi che generano e che sostengono e che incrementano le afflizioni. Quindi questa nascita è associata quindi a queste tendenze. È da questo punto di vista che è sofferenza, perché si nasce con già delle impronte, e queste impronte rendono la pratica della virtù molto difficile. Molto difficile. Ecco perché sono tendenze disfunzionanti. Sono infatti si chiamano classe discordante. E la classe discordante di che cosa? Della saggezza. Okay? Della virtù, della felicità, sono classi discordanti, sono oggetti di abbandono. Quindi la nascita è anche sofferenza perché è l'origine della sofferenza, nel senso che semplicemente dovuto al fatto di nascere, okay, dobbiamo invecchiare, dobbiamo essere ammalati e dobbiamo morire. Questo è semplicemente dovuto al fatto che siamo nati, dobbiamo sperimentare altre sofferenze. Quindi la nascita è la causa, da un certo punto di vista, è l'origine a tutte le sofferenze che seguono dal secondo istante in poi del concepimento. Poi la nascita è anche sofferenza perché è l'origine delle afflizioni. Cosa significa? Significa che quando si nasce, quindi vengono formati i poteri sensoriali, vengono formati, quindi e visto che abbiamo dei poteri sensoriali ci sarà anche il contatto con gli oggetti dei sensi, e visto che c'è il contatto con gli oggetti dei sensi c'è anche la sensazione, no? Quindi quando i tre si aggregano, no? Il potere sensoriale, la coscienza e i vari oggetti rispettivi dei sensi, allora c'è l'esperienza di sensazione, e dovuto alla sensazione ci sono le afflizioni. Okay? Quindi semplicemente perché siamo nati e che abbiamo dei poteri sensoriali e che entriamo in contatto con i vari oggetti, allora dobbiamo generare attaccamento per ciò che è spiacevole, la brama, l'avarizia, dobbiamo generare l'avversione, l'odio per ciò che è spiacevole. Questo è perché, quindi da questo punto di vista anche la sofferenza, cioè la nascita è sofferenza, perché incrementa le afflizioni. Ogni volta che noi generiamo un'afflizione, che per esempio siamo all'interno della rame del desiderio, generiamo un istante di attaccamento, un istante d'odio, lasciamo un'impronte per un altro istante di afflizione del livello simile. Okay? Quindi è una cosa, non è che dobbiamo, nel senso che ho già sentito certe volte, no? Qualcuno che diceva, ah ma sì, ma io cerco di... Come si dice, di farla finita con l'attaccamento, tuffandomi nei vari oggetti, okay? Cioè, nel senso cercando il più possibile di utilizzare questi vari oggetti perché a un certo punto così sia, si genera, cioè si pensa poter andare alla fine dell'attaccamento, no? Alla fine dell'attaccamento. Però questa cosa non funziona. È come bere, ci sono molte concezioni erronee, è come bere dell'acqua salata, no? Cioè, nel senso che. Sì, più generiamo dell'attaccamento, della brama, del desiderio, più automaticamente questa tendenza diventa sempre più salda e si incrementa nella propria mente. Quindi non soltanto la frequenza dell'attaccamento aumenta, ma anche l'amplitudine dell'afflizione. Okay? Quindi è molto importante di proteggere la mente da queste attitudini. Di solito è abbastanza facile di capire. Che dobbiamo proteggere la mente dell'avversione, perché l'avversione è cioè, qualcosa di troviamo che è abbastanza brutto, no? Ci fa soffrire direttamente, subito, e poi ci dà adito alla collera, tutte queste cose. Quindi l'avversione è l'orgoglio, queste cose sono considerate un po' come cose un po' brutto, quindi la persona si vergogna anche quando si arrabbia, quando genera queste attitudini. Invece l'attaccamento in generale non abbiamo non abbiamo la stessa attitudine. Prima non viene riconosciuto come qualcosa come un disagio, non viene riconosciuto come qualcosa che ci fa soffrire, però infatti l'attaccamento ci fa soffrire molto di più dell'avversione, molto di più, perché ciò che ci lega all'esistenza, al di là dell'ignoranza, è la sete. Per i vari oggetti, per le varie esperienze, per le sensazioni. È principalmente questo che ci lega all'esistenza. E se guardiamo anche, no, quando si può mentalmente soffrire, quando siamo in contatto con qualcuno che ci dà difficoltà nell'ambito del lavoro, eccetera, e quando invece l'attaccamento ci può far soffrire, no? Quando una coppia si lascia o quando i nostri sentimenti non sono condivisi, vediamo che è una sofferenza molto più profonda, molto più intensa, no? E che dura molto molto di più. Quindi se guardate bene, no? L'attaccamento è qualcosa che ci fa soffrire molto di più della collera. Non soltanto ci fa soffrire, ma ci mente anche, perché è una distorsione, un'esagerazione della realtà. Scusa, proprio rispetto a questa cosa che secondo me è importantissima in questo percorso, no? Cioè alla base della mano, cioè di entrare a far parte di questo punto, di questa sofferenza, di capire la sofferenza, l'attaccamento. Io non riesco però a vedere attaccamento e avversione, io le vedo come la stessa medaglia, cioè probabilmente è la stessa moneta che si gira a seconda di come l'attaccamento talvolta non riesci ad ottenere quello per cui sei tanto attaccata, allora in quel momento subito avviene l'avversione. Quando al momento riesci a riottenere quello che desideravi, diviene l'attaccamento. Cioè non riesco a distinguere le due cose, mi sembrano molto quasi. Beh, nel senso che sì, più uno ha attaccamento, più uno ha avversione. Più uno ha avversione, più uno ha attaccamento. Nel senso che l'amplitudine è uguale, no? Se si va molto profondo e se l'avversione è molto violente, anche l'attaccamento sarà molto violento in generale. Però Vedi, non sono. l'avversione è più pericolosa, l'attaccamento è più pericoloso dell'avversione. A lungo termine, sì. Certo, non c'è Non solo dubbio. proprio cioè, entrambi, nel senso che l'avversione è molto più facile da abbandonare, molto più facile. Infatti dicono che l'avversione o la collera, okay, viene eliminato come della polvere su un vestito. È facile realizzare che l'avversione ci fa soffrire e che lo dobbiamo abbandonare, e anche lavorare sull'avversione è qualcosa di non difficile. Invece è meno difficile. Invece di lavorare sull'attaccamento è molto più difficile, perché l'attaccamento appare come qualcosa che ci produce felicità. Infatti quando c'è attaccamento, quando l'avversione si manifesta nel continuo mentale, c'è una sensazione di infelicità, di sofferenza. Quindi ecco perché è facile di bloccarlo, perché uno non vuole essere infelice, e quindi da questo punto di vista si realizza che l'avversione, quando si manifesta, uno è uno stato di sofferente, e quindi si cerca di evitare. Però invece l'attaccamento si mostra come un amico, perché quando l'attaccamento è manifesto c'è una sensazione piacevole che è concomitante, no? Il contatto con, c'è il contatto con l'oggetto, c'è l'attaccamento e c'è questa sensazione piacevole, quindi si manifesta come qualcosa che ci può essere di beneficio, ma dobbiamo guardare. Quindi ecco, è molto più storto l'approccio dell'attaccamento, e non è così ovvio come l'avversione. E questo animo, quindi, necessita un'analisi molto più sottile per realizzare che veramente ci danneggia, non è così evidente. Questo è chiaro, che l'attaccamento fa più soffrire che l'avversione. Questo è chiaro, lo vedremo. Comunque tutto questa il capitolo sull'origine della sofferenza viene dopo, quindi ci allungheremo molto in dettaglio. Avevi una domanda? No, perché qui nel rame del desiderio, quindi ha le sue caratteristiche, poi abbiamo il mondo, la dimensione della forma e la dimensione del non forma, ok? Ogni di questi livelli hanno dei livelli di attaccamento per il proprio livello, ok? Quindi noi siamo nel rame del desiderio, abbiamo attaccamento per gli oggetti del rame del desiderio. Quando uno passa tramite una concentrazione, che è un sentiero mondano, no? Nel senso, si alza, alza la mente di livello, e per alzarsi di livello la mente deve mollare l'attaccamento agli oggetti del rame del desiderio. Però quando è nel rame della forma, c'è attaccamento per gli oggetti del rame della forma, quindi non si esce, si può alzare, e quindi anche sperimentare stati di grande beatitudine, perché c'è un'estasi che esiste in questi stati mentali, però c'è comunque l'attaccamento. Ok, quindi abbiamo visto che la sofferenza della nascita, cioè la sofferenza della nascita, la nascita è sofferenza perché uno è associato con il dolore nel grembo materno, che al momento della nascita e anche dopo, okay? Nel processo di nascita. Il secondo, la nascita è sofferenza perché è associato con un'infinità di tendenze disfunzionanti, ok? Che sono, quindi la nascita è associata con i semi che generano, che sostengono e che incrementano le afflizioni, e non abbiamo quindi nessun controllo su queste cose, e rendono la pratica della virtù molto difficile. Quindi sì, cosa significa che la pratica della virtù è difficile? Significa che la propria produzione delle cause della felicità è difficile, ma che invece la produzione delle cause per la sofferenza è qualcosa di naturale. Quindi questa è la nascita. Quindi la nascita è sofferenza perché è l'origine della sofferenza, nel senso che, visto che siamo nati, dobbiamo invecchiare, essere ammalati e morire. La sofferenza, la nascita è sofferenza perché è l'origine delle afflizioni, da questo punto di vista, dal punto di vista che una volta che siamo nati, okay, le afflizioni sorgono, c'è una proliferazione delle afflizioni ogni volta che entriamo con i vari oggetti, okay? Quindi quando l'oggetto è piacevole automaticamente c'è l'attaccamento. Quando l'oggetto è spiacevole, automaticamente c'è l'avversione. Okay? Quindi, e questo è un processo senza fine. Okay? E non abbiamo nessun controllo su questa cosa. E quindi queste afflizioni, quando si alzano, c'è un tormento della mente, no? Guardate, per esempio, è molto importante che questo non vanno lasciate sulla carta. È qualcosa che dovete portare nell'esperienza personale e dovete verificare che nella vostra esperienza è effettivamente così. Quindi dovete riflettere e vedere che effettivamente è così. Cioè, quindi dovete riconoscere l'afflizione quando l'attaccamento sorge, osservare lo stato di mente. È uno stato di mente in serenità, in pace, felice, okay? O di sofferenza, agitato, frustrato, insoddisfatto. Cosa produce l'attaccamento? Dovete andare, è importante analizzare lo proprio stato mentale. Okay? Quando queste cose si manifestano, è la stessa cosa per l'avversione. L'avversione anche certe volte è presa come un amico, perché ci permette di separarsi di situazioni difficili. Uno si arrabbia e quindi riesce a evitare certe cose intorno, ma a lungo termine, anche a breve termine, l'avversione e la collera è qualcosa che ci fa soffrire, no? La mente disturbata, un grande stato di agitazione, neanche un pasto riusciamo a apprezzarlo, distrugge le virtù accumulate, ci allontana dalle persone, perché c'è anche questo processo, no? più lasciamo se non mettiamo nessun limite alla nostra mente, sviluppiamo queste tendenze, no? E alla fine la nostra mente diventa sempre più debole. C'è una piccola cosa, subito la mente si scatta la collera, l'impazienza, l'avversione, perché la temperatura cade, o perché fa troppo caldo, perché c'è troppo rumore, o perché uno non può meditare perché il vicino di casa sta tagliendo l'erba, o perché questo ci ha detto qualcosa. Cioè, alla fine tutto diventa, cioè, più è entrati in questa dinamica. Se non controlliamo la nostra mente, allora c'è questa proliferazione che va incrementandosi, e alla fine il continuo mentale è sempre più perturbato. È un processo senza fine, e comunque l'avversione dopo vi allontana anche dalle persone, perché nessuno può essere in contatto con uno che si arrabbia per niente. Quindi l'origine dell'afflizione, l'origine delle... è la sofferenza, la nascita è sofferenza perché è l'origine delle afflizioni. Okay? Poi la sofferenza, per finire, la nascita è sofferenza perché è una separazione non voluta. Visto che siamo nati, quindi ci sarà una fine. Ci sarà separazione di tutto ciò che conosciamo in questa esistenza. Quindi la nascita è sofferenza perché è automaticamente separazione non voluta. Ok? Quindi la nascita dice che alla nascita uno è legato alla sofferenza, è automatico, si nasce e uno diventa legato, vincolato, mettiamola così, vincolato alla sofferenza, è dotato da tendenze disfunzionanti. La nascita conduce comunque alla fine alla malattia, necessariamente, conduce all'invecchiamento, conduce alle afflizioni e perfine e quindi alla morte anche. Okay? Quindi dobbiamo riflettere su questa cosa molto molto. La Mazzongola dice che delle otto tipi di sofferenza, le più importanti sono la prima, il meditare, come l'abbiamo fatto, sulla sofferenza della nascita e sulla sofferenza che sono il fatto di aver cinque aggregati contaminati, okay? Che è la numero otto che vedremo. Non ho nessun orologio. Cioè, hai un orologio? Sì, qualcuno mi può prestare un orologio, per favore, così posso controllare. Il cellulare. Grazie, l'ho dimenticato, grazie, così posso più o meno controllare. Ok. Quindi è importante riflettere su queste cose, non accontentatevi di fare una meditazione un giorno su di questa, poi lasciate la cosa e poi una settimana dopo fate un'altra meditazione. Questa dovete andare a colpire ancora, ancora, ancora. Quindi all'inizio non aspettate neanche che all'inizio siete in grado di generare l'oggetto di meditazione, no? Questa mente che sorge, questo desiderio di essere liberato. Cioè, ho anche una sensazione su queste varie sofferenze, no? È qualcosa che si ottiene con un po' di familiarità, ok? Un po' di familiarità. Quindi ci dovete dare il tempo, dovete metterci l'impegno, lo sforzo, essere diligente nella vostra pratica e queste cose dopo a un certo punto diventeranno così evidente, diventeranno veramente evidenti. Ok, poi abbiamo la sofferenza dell'invecchiamento. La sofferenza dell'invecchiamento anche qui si osserva tramite cinque punti. Sì, puoi riprendere la lettura. Inoltre, ci sono anche le sofferenze della vecchiaia, con i capelli che si imbiancano, il corpo che si piega, la fronte che si copre di rughe e così via. Quando questo viene illustrato come un degrado della forza fisica, pensiamo che se anche al presente il nostro corpo non si è trasformato, si trasformerà e diventerà non differente da quello. Se tu, praticante, sei relativamente giovane, vedendo persone vecchie e decrepite, dovresti pensare, neppure io sfuggirò a tale sofferenza della vecchiaia. Grazie. Ok, quindi la sofferenza della vecchiaia la possiamo contemplare tramite cinque punti. Il primo è vedere cosa genera la vecchiaia. Fa che il nostro corpo, che quando siamo giovani è abbastanza anche piacevole, che è un bel aspetto, deteriora. Cioè deteriora istante dopo istante. Cioè il nostro, come dice qui, no? La schiena si curva. Ok, la schiena si curva, i capelli diventano bianchi, il viso si copre di rughe, ok? La giovinezza si estingue e uno diventa non attraente, non attraente, ok? Questo è quindi contemplato, cioè la cosa va contemplata in quel modo, su questi vari punti, rispetto al fatto che il corpo piacevole, il corpo attraente, degenera e diventa completamente non attraente. Il corpo, cioè il fisico di una persona vecchia, nudo, è qualcosa di non bello, ok? Questo è un fatto. Ok, poi l'altro punto è che la forza fisica e il vigore deteriorano, si deteriora. Quindi quando siamo vecchi bisogna camminare con bastone, okay? Facciamo molto fatica a salire delle scale. Quando dobbiamo sedersi si cade, è come lasciare un sacco pesante, no? Boom, cadere. Come per alzarci dobbiamo essere è come sradicare un albero, no? Un albero. Quindi questo è la vecchiaia. Uno quando parla diventa difficile da capire, facciamo anche difficoltà a capire le persone anziane, okay? E uno diventa anche incoerente. Quindi questa è l'esperienza della vecchiaia e questo è qualcosa che nel caso nel quale siamo fortunati, è qualcosa che dovremmo sperimentare, nel caso nel quale siamo fortunati. Quindi l'esistenza, questa è l'esistenza umana, quindi abbiamo la sofferenza della nascita, quindi ancora e ancora l'essere deve sperimentare queste sofferenze della nascita e ancora e ancora l'essere deve sperimentare la sofferenza della vecchiaia. La vecchiaia che cos'è? Sono i poteri sensoriali che degenerano anche. Bene, uno non vede più, non sente più. Quindi non si può percepire le forme in un modo chiaro, non si può leggere, non si sente bene, la memoria se ne va, la memoria se ne va e anche la capacità analitica diminuisce col tempo, okay? E uno perde anche, sì, si dimentica anche le cose molto, molto che sono state compiute poco tempo fa, okay? Quindi i poteri sensoriali degenerano. anche i propri godimenti, no? I propri godimenti, tutto ciò che uno non può neanche estrarre piacere di ciò che prima, da ciò che prima gli poteva estrarre il piacere, no? Non si può più mangiare le cose che erano piacevoli prima, perché fanno male di qua, fanno male di là, ok? Quindi c'è difficoltà a digerire o assorbire questi vari cibi, ok? E uno non può neanche godere dei vari oggetti del rame del desiderio, dei oggetti di piacere del rame del desiderio. Questa deteriorazione della vita, la deteriorazione stessa della vita è percepita come dolore. Quindi uno si avvicina con l'invecchiamento, uno si avvicina all'esaustione della forza vitale, l'esaurimento della forza vitale, quindi molto velocemente uno si avvicina al processo, cioè alla morte. Quindi questo uno è consapevole di questo, e questo fa soffrire. E anche c'è la sofferenza della solitudine, okay? Le persone anziane molto spesso soffrono di solitudine, nel senso che i giovani non vogliono essere in compagnia delle persone anziane, okay? Si annoiano in compagnia di persone anziane, cioè, quindi le persone anziane soffrono di solitudine. Questa è la sofferenza della vecchiaia, ok? E dopo abbiamo la sofferenza della malattia. Sì, rispetto alla sofferenza della malattia, anche se non hai avuto tu stesso l'esperienza di essere colpito da una malattia grave, la puoi comprendere in relazione agli altri. Vedendo coloro che sono stati afflitti per molto tempo da una malattia, o coloro che improvvisamente hanno subito un disturbo, hanno un disturbo come venire danneggiati da spiriti o da un'arma tagliente, si dovrebbe pensare: neanche io sfuggirò a tale sofferenza della malattia. Ok. Quindi quando si tratta della sofferenza della malattia possiamo contemplare anche qua 5 punti. Il primo è che la malattia cambia la natura del corpo. Quindi quando uno ha veramente, cioè, anche queste malattie che sono temporanee, no? Come un virus, una cosa del genere, quindi questo cambia proprio la natura del corpo, quindi il corpo diventa proprio nell'entità della sofferenza, no? E anche quando sono delle malattie più pesante, delle cose dalle quali non si può, come si dice, guarire, allora questo proprio crea una degenerazione nella carne, no? Negli organi, tutto questo. Quindi questo quindi fa degenerare proprio la composizione del corpo. Questa è la malattia. Il secondo punto è che quando uno è ammalato, il dolore e l'angoscia mentale, no? Il dolore fisico e l'angoscia sono quasi sempre presenti. Quindi che cos'è la malattia? La malattia è semplicemente gli elementi, no? Il corpo è composto da questi quattro elementi principali, che è l'elemento vento, l'elemento terra, acqua, fuoco. Quando questi elementi sono sbilanciati, allora abbiamo varie tipologie di malattie, in dipendenza dello squilibrio, se un squilibrio dell'elemento vento, dell'elemento fuoco, dell'elemento terra, principalmente dell'elemento acqua, elemento terra in generale, non troppo, ok? Quindi queste fluttuazioni degli elementi si riflettono nel corpo come varie malattie, stati di sofferenza, ok? E causano un tormento fisico, causano il tormento fisico. Quindi è molto molto facile, nel senso che basta che la temperatura scende da qualche gradi e possiamo ritrovarci a letto per una settimana con la febbre a 40. Possiamo c'è questo stato che sappiamo che è passaggero, no? E anche non così danneggiante, è comunque un'esperienza di sofferenza, sì, la tosse, la febbre, queste sono cose banali. Quindi pensate a quelli che hanno delle sofferenze molto più pesante o terminale, no? Questa è un'altra storia. Quindi in questo caso allora c'è anche un'ansia, c'è una sofferenza mentale, dovuto essere consapevole che ha questa malattia, quindi è incurabile, no? Incurabile. Quindi c'è una grande sofferenza e uno quindi spende giorno e notte in questi stati di tormento, di angoscia. Quando siamo ammalati, dovuto alla sofferenza della malattia, uno non può neanche più godere di ciò che è attraente, non prende più piacere nel cibo, non prende più piacere nella compagnia degli altri, non prende più piacere in niente, perché c'è semplicemente questo stato di sofferenza che è manifesto, e dovuto a questa sofferenza manifesta, questo impedisce qualsiasi possibilità di godere di qualcosa. E questo c'è. Cioè, ancora, ancora e ancora, no? Cioè, questo è senza fine. E in generale anche la malattia è sofferenza perché c'è sempre avere ricorso, c'è ricorso, no? C'è, questo è francese, sì? Ha delle cose spiacevole, nel senso o si prendono delle medicine spiacevole da ingerire, o i trattamenti sono proprio sofferenze i trattamenti, no? Come? Dolorosi, sì. O addirittura si può anche andare fino all'operazione, tutte queste cose, quindi c'è la rieducazione. Quindi anche da questo punto di vista, anche per sollevare questa malattia, c'è sempre il ricorso a un trattamento che è doloroso. In generale anche certi trattamenti hanno degli effetti secondari che creano altri problemi, cioè è una cosa a catena. La malattia, per finire, è sofferenza perché è la perdita dell'energia vitale, okay? La perdita dell'energia vitale, e alla fine comunque si muore. Poi abbiamo la sofferenza della morte, si può leggere. La sofferenza della morte è tale che, dopo che la malattia si è accresciuta, vieni respinto dai dottori e imbrogliato dagli indovini, circondato da amici e parenti, ti lamenti nella sofferenza. Vengono i preparativi per le preghiere per il morto e per un funerale imminente. Inoltre, la propria luminosità diminuisce, la bocca diventa secca, le labbra increspate, il naso si appiattisce, gli occhi diventano caverne e il respiro diventa più rapido. Dipende dalle negatività commesse in passato. Vieni separato da tutti i tuoi amici, parenti, attendenti, ricchezze ed eccellenze. Anche il corpo di cui hai avuto cura viene lasciato su un letto. Contempla come sarà inevitabile andare ad un altro mondo sotto il potere dell'attaccamento intenso e dell'aderenza. Ok, quindi la sofferenza della morte è abbastanza chiara, no? Principalmente c'è morte perché c'è sofferenza perché c'è separazione, no? Separazione degli oggetti che troviamo piacevole e attraente, separazione dei familiari, ok? Separazione cioè separazione dai compagni, separazione dal proprio corpo, e tutto questo processo di separazione per andare verso qualcosa che è completamente sconosciuto, quindi in dipendenza dopo alle varie predisposizioni o credenze, si va verso l'annichilamento, no? L'annichilamento, quindi in generale ancora più sofferenza, perché, quindi sì, o la sofferenza, di muoversi verso uno stato quindi sconosciuto, o uno stato sconosciuto, o verso l'annichilamento dell'esistenza vera e propria. Quindi è tutto questo processo dell'incominciare di essere consapevole che andiamo a morire, da quel momento in poi, okay, in questi ultimi giorni o settimane o mesi o anni, c'è sempre angoscia, okay? Angoscia è un terribile tormento per la propria mente, okay? Il fatto di lasciare tutto ciò che ha un significato, tutto ciò al quale siamo attaccati, tutte le cose per le quali abbiamo lavorato, tutti i cari compagni di una vita, tutto questo, il fatto che dobbiamo lasciare tutte queste cose per le persone che non sono preparate, e anche per quelli che sono preparati fino a un certo punto, comunque genera una grande angoscia nella propria mente. Qua abbiamo la sofferenza dopo di incontrare ciò che è spiacevole. Inoltre c'è la sofferenza di temere di incontrare nemici odiati e la sofferenza di temere la separazione degli amici piacevoli. C'è la sofferenza di non ottenere, nonostante l'impegno, ciò che si desidera. C'è sicché uomini d'affari e agricoltori perdono i loro beni, le messe vengono distrutte dalle grandine, chi governa e i suoi ministri non sottomettono i nemici e non proteggono gli alleati, alcuni degli ordinati a causa di antidoti deboli non hanno successo nella moralità, l'attività di ascoltare e riflettere non vengono portate a termine per via della saggezza inferiore e così via. Inoltre, se prendiamo in esame un paese, per esempio, vediamo che coloro che sono autorevoli finiscono per perdere il loro potere, il ricco diventa povero, quelli che stanno con molte persone finiscono con l'essere da soli, succede che nulla rimane come prima, e così via. In breve, medita finché si genera l'esperienza dal profondo del tuo cuore che, a causa delle varie cose non desiderate, fame, sete, caldo e freddo, anche il sostegno fisico di un essere umano è della natura sofferenza. Ok, quindi qui abbiamo stato anche l'elenco di tutte le altre sofferenze, quindi andremo un po' a vedere tutte queste cose, ok? Quindi abbiamo come sesta sofferenza la separazione di ciò che è la separazione, no, scusate, l'incontrare ciò che è spiacevole. Quindi l'incontrare ciò che è spiacevole, questo è molto facile perché quasi ogni ora della propria vita, nella giornata, si incontra ciò che è spiacevole. Già il lunedì mattina è già l'incontrare ciò che è spiacevole. Il lunedì mattina stesso è spiacevole, no? L'incontrare ciò che è spiacevole è, per esempio, incontrare le persone con le quali abbiamo difficoltà, con le quali abbiamo dei problemi, dei conflitti, nell'ambito del lavoro, le dobbiamo incontrare ogni giorno. Quindi anche se non le incontriamo, il solo pensare al fatto che andremo a incontrare ci crea problemi, difficoltà per noi. Quindi uno dimora sempre in questo stato mentale che andremo a incontrare queste persone, abbiamo paura delle loro critiche, delle loro parole, di quello che ci possono delle chiacchiere che hanno intorno, le chiacchiere negative che hanno ai nostri confronti. Okay, quindi uno dimora sempre in questo stato e poi l'incontrare ciò che è spiacevole è sempre presente, no? Incontrare un'esperienza di sofferenza qualsiasi, incontrare ciò che è spiacevole, no? incontrare la malattia, incontrare ciò che è spiacevole, difficoltà, il tempo, il clima, no? Le cose, cioè, è sempre presente questa cosa, no? In generale nell'Amrim, quando parlano di incontrare ciò che è spiacevole, è riferimento a persone con le quali abbiamo dei problemi, difficoltà, non c'è armonia. Okay. Poi abbiamo cioè la sofferenza di essere separato di ciò che è piacevole. Okay. Quindi le sofferenze sono simili all'incontrare ciò che è spiacevole, nel senso che si dimora sempre nell'angoscia di essere separato, ok? E quando siamo stati separati di ciò che è spiacevole, quindi possono essere parenti, possono essere compagni, per vari motivi, sia motivi, diciamo, cioè, naturali come la morte, eccetera, o semplicemente perché c'è la separazione a un certo punto, no, in ogni relazione, allora c'è questa sofferenza, no? La mente, ci lamentiamo. E in questo modo c'è la mente molto triste, ci sono i lamenti, e in questo caso il nostro stato mentale fisico viene aggravato. Si dice aggravato? Uno non ha la capacità di c'è questa sofferenza di non poter più essere in contatto con ciò che era desiderato, amato, eccetera, quindi la perdita di un essere caro, per esempio, o vi dico una separazione non unilaterale, non voluta. Okay? Quindi la mente dimora in questo stato triste, no? Poi c'è la sofferenza di non ottenere ciò che viene desiderato, okay? A non ottenere quello che viene desiderato, questo è molto, molto comune. Noi non otteniamo mai ciò che desideriamo, molto facile. Quindi, e anche se otteniamo qualcosa che eventualmente desideriamo, non lo otteniamo come lo vogliamo, no? Non è mai come lo vogliamo, come si sperava. Okay? Quindi non ottenere ciò che desideriamo, per esempio, è associato anche ai fallimenti, quando negli affari, nei vari progetti, no? Non si ottiene il successo nei vari progetti, nei vari studi, nelle varie relazioni, okay? Nel lavoro. Okay? Questo è, no? Quando si desidera una promozione che non abbiamo, o anche non ottenere la persona per la quale abbiamo dei sentimenti, questi sentimenti non sono condivisi, quindi ricordatevi quando eravate adolescente o anche dopo, la profondità, no? Del dolore di non ottenere ciò che viene desiderato, no? Quindi tutta la nostra vita, infatti quando eravamo giovani avevamo un sacco di sogni, di desideri, pensavamo che l'esistenza poteva essere così, che sarà così, così, così. Guardate adesso quante di queste cose sono state effettivamente ottenute o esaudite. Esaudite si dice? Quasi, quasi, quasi nulla, no? È nulla. Quindi questo è il samsara, questa è l'esistenza ciclica, questa è la natura della condizione umana. Quindi dobbiamo riflettere su queste cose molto, non lasciatele sulla carta, dovete rifletterci, collegarle nella vostra esperienza e vedere che effettivamente è così, e che questo dura da tempo senza inizio e che non c'è fine finché non generiamo questo desiderio di porre una fine a questo. E c'è la possibilità di porre la fine a questo perché siamo vincolati a quel tipo di esistenza dovuta all'ignoranza fondamentale, no? Questo fraintendimento della realtà. Finché pensiamo che i fenomeni, le persone, eccetera, esiste dal potere delle proprie caratteristiche, che ha delle caratteristiche proprie, che esiste per il proprio potere indipendentemente della mente, no? Che nel processo di esistenza i fenomeni esistono dal loro proprio lato, che lì c'è un tavolo, il tavolo esiste dalla sua parte senza dipendere dalla mia mente, finché c'è afferrarsi a questo modo di esistenza, quindi che accettiamo le apparenze, okay? Che accettiamo queste apparenze come essendo valide, allora c'è tutto questo processo, tutto questo processo. E tutte queste sofferenze vengono sperimentate giorni, giorni dopo giorni. Okay? E dopo abbiamo la sofferenza dei cinque aggregati. E cos'è la sofferenza dei cinque aggregati? Allora, i cinque aggregati, abbiamo visto, no? Sono i costituenti fisico-psichici, quindi l'aggregato della forma. Allora, questo si riferisce al corpo. Allora, in generale l'aggregato della forma comprende tutti i fenomeni quindi, che sono oggetti dei sensi. Okay? Questo è aggregato. Tutto quello che potete utilizzare tramite i cinque sensi entra nell'aggregato della forma, perché la forma ha varie divisioni. Abbiamo la forma che è sagoma e colori, questi sono oggetti della coscienza visiva, abbiamo una forma che è odore, questo è l'oggetto della coscienza olfattiva, abbiamo una forma che è suoni, questo è l'oggetto della coscienza uditiva, abbiamo una forma che è sapore, questo è l'oggetto esclusivo della coscienza gustativa, e abbiamo una forma che è oggetto tangibile, e questo è l'oggetto della coscienza tattile. Okay? Quindi l'aggregato della forma prende in considerazione tutti i fenomeni che sono gli oggetti dei sensi, ma in questo contesto si parla dei costituenti fisico-psichici della persona, quindi l'aggregato della forma è il corpo, con i suoi vari aspetti, tangibile, olfattivo, gustativo, eccetera. Quindi questo è l'aggregato della forma, la sagoma, colore, comunque il corpo. Poi abbiamo gli altri quattro aggregati, sono aggregati mentali, okay? Nel senso che abbiamo la sensazione, quando il Buddha le ha presentata, ha spezzato la mente in questi quattro aggregati per vari motivi pedagogici, per spiegare come si entra, il processo di entrata nel samsara. Quindi queste quattro funzioni della mente erano molto importanti e rilevanti nel processo di produrre il samsara sono presentate anche dal punto di vista della sottigliezza, della entità più o meno sottile, okay? Ma anche possiamo vedere che sono anche rilevanti perché fungono di base di imputazione principale all'io, o è su questi cinque aggregati o questi quattro aggregati, perché che abbiamo fatto, abbiamo lasciato già il corpo, che la nozione di io sorge. Quindi abbiamo la sensazione, ok? La sensazione fa sorgere la nozione di io, no? Quando uno sperimenta, quando c'è una sensazione piacevole che sorge, allora uno dice sono felice, sono felice, o sì, o sono infelice, o sono depresso, eccetera. Questo è semplicemente dovuto alla manifestazione di queste varie, di questa continuità di sensazione. E quindi la sensazione dopo, il modo di relazionare la sensazione, o c'è l'identificazione dell'io come essendo la sensazione. Per esempio, quando abbiamo una sensazione piacevole, allora l'io divento la sensazione, nel senso che la persona dice sono felice, c'è identificazione alla sensazione, o sono in uno stato di sofferenza, o soffro, o sono triste, cioè l'io si viene imputato, viene etichettato sulla sensazione, ok? E invece altri momenti l'io appare come il proprietario delle sensazioni. Ci sono le sensazioni e c'è un io che sperimenta queste sensazioni. Cioè queste due cose sono assolutamente valide, nel senso che non c'è un io che sperimenta la sensazione, c'è semplicemente la continuità di, cioè la continuità di queste sensazioni che sorgono, e questo funge di base di imputazione per etichettare un io, ok? Ma dietro la sensazione non c'è nessuno che sperimenta. Come? È una coscienza. Non è una coscienza, perché coscienza, aspetta, è vero che coscienza, conoscitore, mente, questa è mutualmente inclusiva. Però in questa, quando facciamo questa divisione, non ne chiamiamo coscienza, è un fattore mentale. Ok? Quindi la sensazione è un fattore mentale onnipresente. Ogni istante di mente c'è un fattore mentale della sensazione, altrimenti non si può sperimentare l'oggetto. Ok? La sensazione è di tre tipi: piacevole, spiacevole o neutra. La possiamo moltiplicare per i sei tipi di coscienza che abbiamo e troviamo 18 tipi di sensazione, perché abbiamo la sensazione piacevole, spiacevole, neutro nel seguito di una coscienza visiva, nel seguito di una coscienza olfattiva, uditiva, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi anche quando uno dice no, ho fame o ho sete, non c'è nessuno che sperimenta la fame e la sete, c'è semplicemente la sensazione di fame e di sete che sorge nel continuo, dovuto per esempio alla sete dovuta alla presenza dell'elemento fuoco e la fame dovuta alla presenza dell'elemento vento, ma non c'è un io separato da questo, no? Comunque lo vedremo dopo. E dopo abbiamo la discriminazione. La discriminazione è un altro fattore mentale che coglie, è un'attività mentale che coglie il segno non comune nell'oggetto. Quindi non è un'attività concettuale, non pensate che questo sia un'attività concettuale, perché anche la discriminazione è un fattore mentale onnipresente, ok? Quindi la discriminazione è ciò che ci permette di riconoscere il tavolo dal microfono, perché il tavolo ha dei segni non comuni che ne fanno un tavolo e il microfono ha dei segni non comuni che ne fanno un microfono. La discriminazione quindi è questa attività mentale che riconosce, riconosce. Non siamo ancora al livello del concettualizzare, questo è il microfono, questa è la tavola, questo segue, è un altro tipo, questa è la mente concettuale, che invece la discriminazione esiste anche nelle coscienze, nelle menti non concettuali, come le coscienze sensoriali. E dopo abbiamo i fattori di composizione, questo è il terzo aggregato. I fattori di composizione sono i 49 altri fattori mentali, quindi abbiamo 51 in generale, vengono presentati 51 fattori mentali, ok? Però abbiamo il Buddha, quando ha presentato i 5 aggregati, ne ha tirato fuori due già, la sensazione e la discriminazione. Quindi i 49 altri fattori mentali costituiscono l'aggregato dei fattori di composizione, ok? Quindi troviamo gli altri fattori mentali onnipresenti, i fattori mentali determinanti che esistono quando l'oggetto viene realizzato, come per esempio la concentrazione, la saggezza, tutte queste cose, gli 11 fattori mentali virtuosi, come la fede, il non attaccamento, eccetera, eccetera, i 20 fattori mentali non virtuosi secondari, le 6 afflizioni radice, le 6 afflizioni radice, che sono l'ignoranza, l'attaccamento, l'avversione, l'orgoglio, il dubbio e le visioni errate, okay? Le sei afflizioni radice. E poi abbiamo le 20 afflizioni secondarie che derivano di queste sei afflizioni radice e i quattro fattori mentali mutevoli, possono essere virtuosi o non virtuosi in dipendenza dell'attività, per esempio l'investigazione, l'analisi, il sonno diventano virtuosi o non virtuosi in dipendenza della concomitanza. Quindi questo costituisce l'aggregato dei fattori di composizione. Quindi i fattori mentali e poi il quinto aggregato sono le menti principali o l'aggregato delle coscienze, le menti principali, la coscienza visiva, la coscienza olfattiva, la coscienza uditiva, la coscienza gustativa, la coscienza tattile e la coscienza mentale. Ok? Arrivo. Sono le sei, quindi le coscienze principali. Allora, qual è la relazione tra le coscienze principali e i fattori mentali? Le coscienze principali si impegnano realizzano la mera entità dell'oggetto, okay? Per esempio la coscienza visiva è cosciente che c'è un oggetto che è una forma o una sagoma o un colore, okay? Invece i fattori mentali si impegnano negli attributi dell'oggetto, okay? Quindi la mente i fattori mentali è come, per esempio, la coscienza principale sarebbe come il re e poi i fattori mentali sono i ministri. Sono sempre insieme, okay? Quindi in una coscienza principale c'è un certo numero minimo di fattori mentali, c'è un numero minimo, okay? Però il numero massimo si può anche calcolare, dipende dai vari ream nel quale ci troviamo, okay? Quindi la differenza tra i fattori mentali e la coscienza è che la coscienza realizza la mera entità degli oggetti e i fattori mentali si impegnano negli attributi, nelle caratteristiche, le specificità degli oggetti, okay? E hanno cinque concomitanze, okay? Sorgono simultaneamente e cessano simultaneamente, osservano lo stesso oggetto, osservano lo stesso aspetto di questo oggetto, per esempio l'impermanenza dell'oggetto, hanno la stessa similitudine anche in termini di supporto. Per esempio, come la coscienza visiva ha come supporto il potere sensoriale visivo e quindi anche i fattori mentali avranno, che sono nel seguito della coscienza visiva, avranno come supporto il potere sensoriale visivo e hanno la similitudine anche di sostanza. Questo lo possiamo vedere in vari modi. Sì, i fattori mentali sono non virtuosi, la mente non virtuosa. Se la mente non virtuosa, i fattori mentali, nel senso che sono virtuosi o non virtuosi, hanno la stessa sostanza. Okay? L'altra cosa è che non si può esistere, per esempio, due fattori della sensazione nel seguito di una stessa mente. Okay? Quindi sono una sostanza. Simultaneamente possiamo avere varie menti, possiamo avere una mente uditiva, olfattiva, tattile, simultaneamente non c'è problema. Non possiamo avere due coscienze visive simultaneamente, non possiamo avere due coscienze uditive simultaneamente, ma per esempio adesso avete simultaneamente una coscienza uditiva, una coscienza visiva e può darsi una coscienza anche olfattiva, eccetera, una coscienza tattile sicuramente, quindi tutte queste, è proprio, c'è anche la coscienza mentale con tutte le sue sovraimposizioni che sta pensando anche, analizzando il discorso, eccetera. Quindi questo può esistere simultaneamente. Quello che è impossibile è avere due coscienze visive simultaneamente. Quindi questi cinque aggregati che costituiscono la persona sono il risultato dalle azioni. Quindi quando ci ritroviamo con cinque aggregati di un essere umano, okay, questo è il risultato di azioni virtuose, contaminate ma virtuose. Invece quando ci ritroviamo con cinque aggregati di un essere nei stati di sofferenza come animali, eccetera, questo sono il risultato di azioni non virtuose, okay? Quindi sono contaminati perché semplicemente sono il risultato dell'ignoranza, okay? Dell'attaccamento, dell'avversione, della gelosia, dell'orgoglio. Questo è il risultato, okay? Quindi questi cinque aggregati sono sofferenza perché sono il recipiente per le sofferenze future. Semplicemente abbiamo 5 aggregati, significa che nel futuro avremo ancora 5 aggregati contaminati e sicuramente soffriremo. Okay? Induce automaticamente sofferenza nella vita futura, perché se siamo associati a 5 aggregati contaminati ci sarà sofferenza, perché ci sarà la nascita, ci sarà l'invecchiamento, ci sarà la morte, ci sarà la malattia, eccetera. Sono il recipiente della sofferenza di questa vita. Arrivo. La sofferenza di questa vita si sperimenta su quale base? Sulla base di questa mente e di questo corpo. Abbiamo 5 aggregati contaminati, dobbiamo soffrire, dobbiamo sperimentare le varie difficoltà della vita. Ok? Quindi, da questo punto di vista. E sono sofferenza perché sono il recipiente per la sofferenza del dolore, la sofferenza del cambiamento e la sofferenza di condizionalità. Questo le tratteremo più avanti. Ci sono delle domande? Sì, cioè i 5 aggregati sono praticamente ostruttivi alla mente dell'illuminazione. Ostruttivi, cioè nel senso che sono un ostacolo. Sì. Alla mente dell'illuminazione. Allora, l'aggregato della forma, allora dipende, sì, se possono essere un ostacolo o no. Il principale ostacolo sono le proprie afflizioni. Le afflizioni. Ok? Le afflizioni sono un ostacolo. Perché non possiamo generare delle qualità come la compassione, eccetera? Perché abbiamo l'avversione. Dovuto al fatto di avere l'avversione non possiamo generare l'amore e la compassione. Okay? Quindi da questo punto di vista sì, sono un ostacolo alla liberazione, alla generazione di qualità. Okay? Il perché, qual è l'ostacolo all'ottenimento della mente, alla generazione della mente di bodhicitta, è la mente autogratificante. Dovuto al fatto che c'è la mente autogratificante, questa è la classe discordante della mente di bodhicitta. Okay? Quindi sì, infatti... Si chiamano i Mara dei 5 aggregati, no? Mara dei 5 aggregati, perché i 5 aggregati sono l'ostacolo principale alla felicità, i 5 aggregati contaminati sono l'ostacolo principale, perché non ce ne sono, gli altri sono veramente secondari, nel senso gli altri sarebbero le condizioni esterne, ok? All'ottenimento della felicità o della generazione di qualità, all'ottenimento della liberazione, allo stato di Buddha, certo. Della mente di bodhicitta, il corpo, in che modo il corpo può essere un ostacolo alla generazione? Come? Sì, perché è sofferenza, quindi la sofferenza induce uno stato. Cioè di autogratificazione, nel senso di mettersi, di proteggere se stesso prima di proteggere gli altri, però principalmente la mente, perché anche le persone che sono in stati di precario, stati di difficoltà, di sofferenza, questo non impedisce che fanno passare gli altri prima di loro, no? Quindi tutto è un addestramento mentale, il corpo è un ostacolo perché produce malattia, in questo senso, malattia e muore, e c'è la morte. Quindi la malattia rende la cosa difficile, okay? Anche la stanchezza, tutte queste cose, no? Bisogna nutrire il corpo, quindi bisogna perdere un sacco di tempo anche a lavarlo, anche a nutrirlo, a vestirlo, dobbiamo lavorare per vestirlo. Perché cosa lavoriamo? Per nutrire il corpo, per vestirlo, per farlo metterlo in condizione confortevole, il sofà confortevole, tutte queste cose, no? Invece infatti lavoriamo per il corpo, non lavoriamo mai per la mente, se ci pensiamo bene, no? Tutta la nostra vita lavoriamo per il corpo, quindi da questo punto di vista, ok? E poi quando muore abbiamo interruzione del sentiero, il sentiero è interrotto, quindi in questo modo è un ostacolo. Ma qui sarebbe più la morte che sarebbe un ostacolo. Ok, andiamo avanti. Abbiamo la sofferenza, poi facciamo la sofferenza, quindi questa era la sofferenza in otto, Abbiamo la sofferenza in sei. Il primo è la sofferenza, o il difetto dell'incertezza. Nell'esistenza ciclica, tutto è incerto. L'unica certezza, la sappiamo, questo è che dobbiamo trapassare. Okay? Il resto è completamente incerto. Siamo in salute la mattina, la sera siamo ammalati. Siamo ricchi la mattina, la sera siamo poveri. Okay? Siamo in vita la mattina, la sera non ci siamo più. Cioè tutto è incerto, completamente incerto. Noi facciamo dei progetti su 10, 15, 20, 30 anni, ma proprio questi sono completamente irrealisti. Irrealisti. Okay? È incerto anche nel senso che gli amici di oggi sono i nemici di domani. Okay? I nemici di oggi sono gli amici di domani. Okay? In questa vita, i vostri nemici sono i vostri figli nella vita prossima. Ok? Oh, i figli di questa vita sono i nemici della prossima, quindi è completamente incerto. Non si può basare, non c'è niente che può essere preso per scontato. Cioè, questa persona è un amico, cioè rimanerà un amico. Cioè, lo vediamo che non è mai così, non è mai così. Quindi dobbiamo. E invece noi abbiamo un'attitudine completamente opposta. Allora, e quindi dovuto a non essere in contatto con questi aspetti di incertezza, di cambiamento della vita, abbiamo delle aspettative. Abbiamo delle aspettative e pensiamo che tutto è permanente. Questa persona è un nemico, è permanente, rimarrà sempre un amico. E quindi quando dopo ci sono dei problemi e basta pochi, basta delle semplici parole, vibrazione dell'aria, ok? E questa persona diventa un nemico. Okay? E quindi allora, il mondo crolla intorno a noi, o la relazione con la persona, pensiamo che tutta la nostra vita saremo con questa persona, saremo felici, eccetera. Cioè, niente così, questo è, viviamo proprio nella fantascienza, cioè proprio, come si dice, fantasia, fantasia, fantasia. Okay? Quindi sofferenza dell'incertezza. Niente può, non ci possiamo affidare su niente. L'unica cosa che è affidabile, cioè, direi che è il Dharma, perché il Dharma non mente, nel senso che è l'approccio obiettivo della realtà. Okay? Qui certe volte quando ci sono queste sezioni di insegnamenti sull'analisi della sofferenza, eccetera, persone pensano, i buddisti sono veramente pessimisti, eccetera. Ho sempre anche, un giorno parlavo con un amico. E lui aveva la sensazione che stavo diabolizzando l'esistenza. No, è semplicemente uno sguardo, perché tutte queste sono cose che ci accadono, cioè, nel corso di tutta la vita. È molto frequente. Tutte le cose delle quali abbiamo parlato adesso sono delle cose che non c'è niente di strano, no? Non c'è niente, è la vita di tutti i giorni. Nella nostra famiglia, nelle famiglie degli altri, nel nostro continuum, nel continuum degli altri, sono questi eventi che accadono. Però no, vanno sempre occultate. Vanno sempre occultate perché la nostra mente ha questa attitudine, no? A voler sempre essere in contatto con ciò che è piacevole. Noi non vogliamo sperimentare neanche la minima sofferenza, neanche all'interno dei nostri sogni. Quindi anche quando incontriamo questa insoddisfazione, questa difficoltà, non ci pensiamo, no, cioè, lo occultiamo e ci focalizziamo sugli aspetti positivi, sugli aspetti più piacevoli dell'esistenza. È una relazione completamente normale perché è sopravvivenza. Perché se uno si focalizza solo sugli aspetti di sofferenza della vita, senza sapere che c'è una possibilità di porne una fine, che c'è un rimedio a questa cosa, allora, cioè, l'esistenza diventa completamente invivibile. Non ha senso. E infatti non ci sarebbe nessun senso di contemplare queste cose se non c'era possibilità di emanciparci di queste sofferenze. Anzi, andiamo a contemplare proprio perché, proprio perché, perché c'è la possibilità di farla finita con tutte queste varie difficoltà e problematiche. Altrimenti. Cioè, lo scopo del buddismo è alleviare la sofferenza fino all'eliminazione completa del disagio, no? Quindi queste cose non dovrebbero incrementare la sofferenza, anzi, cioè, se incominciamo a contemplare queste cose, no? Allora ciò che accade è che entriamo in contatto con ciò che è fattualmente concordante. Cioè queste contemplazioni, vari dettagli, è un'analisi della realtà convenzionale. Questa è l'analisi dell'esperienza convenzionale di un essere ordinario. Okay? E quindi meditare su queste cose fa in modo che, perché adesso no, la nostra mente interagisce con l'ambiente e gli altri tramite delle sovraimposizioni. Permanenza, piacere, purezza, nozione di un io intrinseco e autonomo. E ogni volta che siamo, quindi entriamo con ciò che non è fattualmente concordante. E quindi automaticamente quando siamo confrontati alla realtà obiettiva di questi eventi, la morte, la malattia, le separazioni, tutte queste cose, allora l'impatto è automaticamente più grande sulla mente, perché la persona non è preparata a queste cose, perché evolve una specie di fantasia, no? un'allucinazione. Allora ogni volta quando c'è per esempio la morte di una persona molto cara o la separazione con il partner, cioè, allora cioè, il mondo crolla semplicemente perché la persona viveva in un'altra dimensione. Invece contemplare queste cose, cosa fa? La mente diventa fattualmente concordante con la realtà. E con queste, quando accadono, allora non c'è più questo impatto violente, la mente è preparata e anche la reazione, visto che questo è congruo con il modo di esistere dell'essere ordinario, allora la cosa fluisce e viene anche utilizzata per generare delle qualità come il non attaccamento, come la non avversione, come la mente di emersione definitiva, con la compassione, con la pazienza, invece di avere questo impatto, di essere arrabbiato all'esistenza e agli altri, eccetera, di essere triste quando qualcosa non va. Questo perché semplicemente perché la mente non entra con le caratteristiche, con ciò che è fattualmente concordante. Sì, questo è dell'inglese che metto in italiano. No, i fatti, no? Ci sono dei fatti. I fatti. Quindi ciò che è in accordo con questi fatti e eventi dell'esistenza. Fattivamente concordante. Vabbè, comunque con le caratteristiche convenzionali dell'esistenza. Invece di noi siamo in un mondo, una dimensione molto mentale, eh? Abbiamo delle idee, accogliamo delle cose, no? E ci facciamo delle idee sulle persone, sugli eventi, su, e poi abbiamo tutte queste concezioni erronee, questi livelli di ignoranze rispetto al modo di esistere sia ultimo ma anche convenzionale dei fenomeni. Quindi automaticamente, visto che il nostro modo di relazionarsi non è congruo col modo di esistere, automaticamente c'è il disagio alla fine, automaticamente c'è un grande disturbo, sorpresa, sofferenza, eccetera. Ok, non so se è chiara questa cosa, è uscita? Qua abbiamo la sofferenza dell'insoddisfazione. Ma questa è la più grande sofferenza umana, cioè la sofferenza che caratterizza principalmente gli esseri umani è l'insoddisfazione. Non va mai niente, cioè niente non è mai abbastanza, niente non è mai esattamente come lo vogliamo, non è mai perfetto, cioè l'insoddisfazione. Questa sete per il continuo ripetere delle stesse esperienze, no? Le nostre esperienze cerchiamo sempre, no? Se guardiamo come ricerchiamo l'ottenimento della felicità nella vita, principalmente attraverso gli oggetti dei sensi, no? Accumulare le esperienze, accumulare le relazioni, accumulare i soldi, accumulare i possedimenti, accumulare le responsabilità, accumulare il potere, non è mai abbastanza. Non è mai abbastanza. È come bere l'acqua salata, no? Quindi c'è, non c'è mai un livello, se ci appoggiamo su questi supporti per ottenere felicità, per ottenere felicità, non c'è mai un livello dove questo basta, cioè, non ho più bisogno di accumulare esperienze nuove, non ho più bisogno di accumulare niente, poteri, soldi, questo mi basta, no? Di solito più ne abbiamo, più ne vogliamo. Perché? Perché semplicemente incrementiamo l'attaccamento. C'è un incremento dell'attaccamento, quindi visto che c'è un incremento dell'attaccamento, automaticamente c'è un incremento dell'insoddisfazione. Automatico. Ogni volta che we indulge, come si dice indulge? Che ci indulgiamo, no? Negli oggetti di attaccamento, negli oggetti della nostra brama, incrementiamo questa brama, l'incrementiamo automaticamente. Quindi dobbiamo incominciare a esercitarci un controllo su queste cose, perché andiamo a sbattere contro il muro. Quindi siamo sempre, no, alla ricerca della soddisfazione, pursuit, come si dice? Pursuit. Questa corsa è una specie di corsa, no? Siamo sempre sia a correre dietro l'ottenimento della soddisfazione, no? A rincorre dietro le persone, i compagni, non c'è mai fine. Tempo dopo tempo la nostra brama, la nostra sete cresce, e quindi come risultato continuiamo a giravagare nell'esistenza ciclica. Questo è il miglior modo per continuare a produrre l'esistenza ciclica. E quindi come risultato c'è sempre l'esperienza di tutte queste sofferenze che abbiamo menzionato prima. Questo sì, c'è l'esistenza ciclica, c'è la sofferenza. Quindi questa soddisfazione nei testi viene paragonata anche le persone che hanno questa malattia della lepra, no? Ok. Pensano, c'è questa sensazione, no, di sentire un rilievo vicino al fuoco, cioè che il calore produce un rilievo, ma infatti non produce il rilievo, o lo produce per un breve istante, perché dopo incrementa la sofferenza. E quindi c'è sempre questo essere attratto da andare vicino, no? E infatti per sperimentare ancora più sofferenza alla fine, no? È come queste si bruciano, si sentono la sensazione, per cui poi alla fine perdono. Ecco, ancora più preciso. È come queste farfalle, no? Che sono attratte dalla luce, quindi vanno lì vicino alle candele e si bruciano. Quindi noi siamo attratti da questi vari oggetti, perché i vari oggetti, varie situazioni dell'esistenza, perché pensiamo trovare la soddisfazione, perché ciò che ci muove verso oggetti è l'insoddisfazione, no? E cerchiamo qualcosa, quindi ci muoviamo verso questi oggetti, però alla fine non sperimentiamo la soddisfazione, no? Siamo sempre lì a girovagare, a ricerca di qualcosa. E guardate anche, no? Anche una volta che otteniamo qualcosa, la mente funziona così, no? Mettiamo che riusciamo a ottenere la cosa del nostro desiderio, può essere una situazione, può essere un lavoro, può essere una promozione, mettiamola così, una promozione, o un oggetto materiale, o un compagno, eccetera. Allora, infatti, ciò che accade è che la mente percepisce solo l'oggetto, no? Ma quando l'oggetto viene ottenuto, dico oggetto perché tutto è oggetto di coscienza, okay? Allora c'è una pioggia di inconvenienti che vengono con ciò che viene ottenuto, no? E quindi non si può neanche sperimentare la soddisfazione. La soddisfazione è molto breve, si ottiene la cosa, siamo soddisfatti, ma poco dopo ci sono altre problematiche che derivano del nuovo possesso di questa cosa, sia a livello materiale, o a livello di circostanze esterne, che a livello anche mentale. Okay? Per esempio, si ottiene una macchina nuova, siamo contenti, però dopo abbiamo paura che ce la rubano, abbiamo paura quando viene danneggiata, quando non funziona è un problema, stessa cosa, diventiamo dipendenti di un sacco di cose, diventiamo dipendenti dalla televisione, diventiamo dipendenti dai computer, quindi alla fine sì, va bene avere il computer, però dopo un po' di tempo diventa anche un problema avere il computer, non funziona, c'è sempre un sacco, ogni volta che si ottiene qualcosa c'è una pioggia di circostanze secondarie che derivano di questo possesso che ci impediscono il godere dell'ottenimento di quell'oggetto. Cioè, riflettete su questa cosa, cercate di vedere se è effettivamente così. Poi abbiamo c'è questo errore di abbandonare il corpo ripetutamente, no? Quindi abbiamo questo corpo, lo dobbiamo abbandonare, okay? Di nuovo, e quindi c'è tutto il processo della morte automaticamente, questo da tempo senza inizio e senza fine. L'errore anche di sperimentare la nascita ancora e ancora e ancora, con tutte le sofferenze che ne derivano. Okay? La sofferenza anche di ripetutamente scendere dall'alto al basso, quindi sia a livello di risonanza ciclica, no? La risonanza ciclica si dice che è un punto su una ruota, si ottiene una vita superiore e poi una vita inferiore, cioè è un punto su una ruota, quindi, e anche nella vita di tutti i giorni, no? Anche nell'arco di una vita si ascende a livelli sociali o finanziari o di salute elevati e poi si cade, si scende più si cade. In generale anche questa è sempre associata all'insoddisfazione, per tornare all'insoddisfazione, no? Più c'è questa ascesa a livello economico o a livello del potere o a livello sociale, no? E più diventa difficile di mantenersi a questi livelli. Quindi più la sofferenza e l'insoddisfazione aumenta. È come arrivare a questi livelli è molto difficile. Ma mantenersi a questi livelli è ancora più difficile e crea ancora più tormenti, ancora più sofferenza. È come salire su un albero, no? Più si sale, più i rami diventano sottili e quindi diventa difficile di mantenersi in questi livelli. Okay? Quindi l'esistenza è così. Poi ci sono, quindi abbiamo fatto il quinto, il sesto di questa divisione in sei. È la sofferenza o l'errore di non aver compagni. Quindi cosa significa? Significa che in questa vita ci sono dei compagni, dei amici, dei parenti, eccetera, però le dovete lasciare, le dobbiamo lasciare e dobbiamo partire da solo verso la prossima vita e dobbiamo nascere da solo nella prossima vita. E di nuovo si ricrea queste intimità, queste relazioni con le persone care che dobbiamo di nuovo lasciare. Di nuovo rinascere da soli e questo senza fine. Okay? Senza fine. Okay? Quindi sì. Quindi sì, abbiamo visto quindi anche le sei, la divisione in sei velocemente. Questa divisione in sei può essere riassunta in tre. Okay? Abbiamo il primo aspetto che è la mancanza di sicurezza o di certezza nella base, che è l'esistenza ciclica. Ok? Il secondo è l'impossibilità di ottenere la soddisfazione. E il terzo è l'aspetto che dura da tempi senza inizio, da tempi senza inizio, è un ciclo che si perpetua. Ok, ci sono delle domande? Si parla non generale nel senso di immersione definitiva dal samsara, no? Più che un commentare Quindi bisogna riflettere su queste cose finché ci sentiamo. La Matsugawa dice, no? Come seduto su un ago. Okay? E senza generare questa mente di immersione definitiva è impossibile generare la mente di grande compassione, la mente di amore, no? È qualcosa che esiste solo a livello verbale. Solo a livello verbale, è impossibile. Quindi questo è il prerequisito. Anche se abbiamo questa aspirazione, no? Che siamo attratti dal grande veicolo, dobbiamo comunque cominciare per essere di motivazione iniziale, ma anche contemplare in un modo ripetuto le varie sofferenze di vita ciclica. Quindi il modo di contemplare non semplicemente la lista dice ah, questo esiste, è a connetterle con la propria esperienza, connettere con la propria esperienza e pensare che questo dura da tempi senza inizio e non c'è fine, non c'è fine. Quindi generare questo, e alla fine quindi dobbiamo far sorgere questa mente che desidera la liberazione, emanciparci di questo, e questo ci focalizziamo in un punto su questa mente e cerchiamo di consolidarla. Bene, quindi ci vediamo settimana prossima e faremo la divisione in tre, che è molto importante, molto molto importante la divisione in tre: sofferenza della sofferenza, sofferenza del cambiamento e sofferenza ogni pervasiva di composizione. Qui darò un'occhiata a queste cose la settimana prossima e vi do anche le risposte. Allora, quindi come di solito cerchiamo di rallegrarsi delle virtù che abbiamo accumulate qui, a riflettere su queste cose che abbiamo con lo sforzo che abbiamo fatto. Voi avete fatto anche il quiz, quindi queste delle virtù sono state generate nell'ascolto, nel cercare di riflettere, essere concentrata nella generazione della corretta motivazione. Quindi per fare in modo che queste virtù non vengano persi, andiamo a dedicarle affinché tutti gli esseri ottengano la liberazione, l'emancipazione, tutte queste sofferenze che esistono nel samsara al più presto, per fare in modo che noi molto velocemente otteniamo lo stato di Buddha, per essere in grado quindi di aiutare gli esseri a uscire e a proteggerli di queste sofferenze. Andremo a dedicarla alla lunga vita dei maestri autentici che insegnano il vero sentiero verso la vera cessazione, e anche in modo che l'insegnamento del Buddha dimora per lungo tempo senza fermarsi, senza degenerare in questa terra, per il più grande beneficio degli esseri. Gyawadi nyododo lama sangye drungyuna lova jinyama lupa deye salangoba jangjo zemjo rinpo je amagya banam ge yudhi nyama nyamba nyamba yongane gondu pelva jo gare rawe gorwe chingamri tam dam dewa maru juwene chenre jivan tenjin yatso ye shabe shinte abad den yuji onda so jinye sambe gyawadi tam dam drawa guna gambe dan yamba jetsu lozan ramay tembe nyambo rindu senje. Grazie. Intera a salvare le persone.